Ciao a tutti, mi chiamo Massimiliano, faccio il giornalista radiofonico e vi leggerò un racconto di Edgar Allan Poe che si chiama Il cuore rivelatore, uscito nel 1843. Lo leggo in traduzione di Maria Rosa Mancuso. È vero, sono nervoso, spaventosamente nervoso, e lo sono da sempre. Ma perché volete dire che sono pazzo? La malattia aveva acuito, non certo distrutto e nemmeno intorpidito i miei sensi. Soprattutto possedevo un udito finissimo. Udivo tutte le cose che accadevano in cielo e in terra e parecchio di quel che accadeva all'inferno. Perché mai dovrei essere pazzo? Ascoltatemi e osservate l'assennatezza, la tranquillità con cui sono capace di raccontarvi l'intera storia. Non saprei dire come l'idea si sia fatta strada per la prima volta nella mia mente, ma dopo che mi entrò in testa ne fui ossessionato giorno e notte. Non avevo uno scopo, non c'entrava la passione, amavo quel vecchio, non mi aveva fatto nulla, non mi aveva offeso, non desideravo le sue ricchezze. Penso che fosse l'occhio, certo, l'occhio, azzurro, chiaro, velato, sembrava quello di un avvoltoio. Ogni volta che si posava su di me mi gelava il sangue. Così, a poco, lentamente, presi la decisione di ucciderlo e di liberarmi per sempre del suo occhio. Qui sta il punto. Mi credete pazzo? I pazzi non sanno quello che fanno. Avreste dovuto vedere me, invece. Avreste dovuto vedere la saggezza con cui mi comportai e la cautela, la preveggenza, la dissimulazione con cui mi misi all'opera. Non sono mai stato tanto gentile con il vecchio come la settimana prima di ucciderlo, e ogni notte, verso mezzanotte, giravo la maniglia della sua porta e l'aprivo piano piano. Poi, quando lo spiraglio era sufficiente, introducevo una lanterna cieca, schermata in modo che non ne filtrasse neppure un raggio di luce, e poi mettevo dentro la testa. Avreste riso certamente a vedere con quanta destrezza mi affacciavo. La muovevo lentamente, molto lentamente, in modo da non disturbare il sonno del vecchio. Mi ci voleva un'ora per infilare la testa nell'apertura, in modo da riuscire a vederlo disteso sul letto. Potrebbe un pazzo essere tanto prudente? E poi, quando la testa era ormai nella stanza, con cautela aprivo la lanterna. Davvero con cautela, con molta cautela, perché la cerniera strideva. L'aprivo quanto bastava perché un sottile raggio di luce colpisse l'occhio d'avvoltoio. Lo feci per 7 lunghe notti, ogni volta a mezzanotte, ma trovai sempre l'occhio chiuso. Mi fu quindi impossibile compiere il mio lavoro, perché non era il vecchio a perseguitarmi, ma il suo occhio malefico. E tutte le mattine, all'alba, entravo baldanzoso nella sua camera. Con coraggio gli rivolgevo la parola, chiamandolo per nome, in tono cordiale, e chiedendogli come avesse trascorso la notte. Capite bene quindi che avrebbe dovuto essere un vecchio davvero molto perspicace per sospettare che ogni notte, a mezzanotte in punto, lo osservavo mentre dormiva. L'ottava notte fui più cauto del solito nell'aprire la porta. La mia mano si muoveva più lenta della lancetta dei minuti in un orologio, ma mai prima di allora mi ero reso conto del mio grande potere, della mia sagacia. Solo a fatica riuscivo a trattenere una sensazione di trionfo. Pensavo che ero là, che stavo aprendo la porta, a poco, e il vecchio non immaginava neppure lontanamente le mie mosse e i miei pensieri segreti. A questa idea mi sfuggì un sogghigno, e forse lui mi udì, perché improvvisamente si mosse nel letto, come se qualcosa lo avesse svegliato. Penserete forse che la sua mossa mi abbia fatto indietreggiare? Niente affatto. La stanza era immersa nelle tenebre, nera come pece. Le imposte erano ben chiuse per timore dei ladri. Quindi sapevo che non poteva vedere lo spiraglio della porta e continuai a spingerla, sempre più. Avevo sporto la testa all'interno e stavo per aprire la lampada, quando il dito sbagliò la presa sulla serratura metallica e il vecchio balzò a sedere sul letto, gridando: "Chi è là?" Rimasi immobile, senza dire nulla. Per un'ora intera non mossi neanche un muscolo, ma non l'udii sdraiarsi. Se ne stava seduto sul letto, fermo ad ascoltare, proprio come una notte dopo l'altra avevo fatto io, tendendo l'orecchio al ticchettio dei tarli nella parete. In quel momento udii un gemito sommesso e capii che era un gemito di terrore mortale. Non un gemito di dolore o dispiacere, niente affatto. Era il suono basso e soffocato che viene dal fondo di un'anima sopraffatta dallo spavento. Conoscevo bene quel suono. Per molte notti, a mezzanotte in punto, quando il mondo intero dorme, era scaturito dal mio petto, rendendo più profondi, con la sua eco spaventosa, i terrori che mi sconvolgevano. Ho detto che lo conoscevo bene, sapevo quel che il vecchio provava e ne avevo pietà, anche se in cuor mio sogghignavo. Sapevo che era sveglio fin da quando avevo udito quel primo rumore, quando si era girato nel letto. Da allora le sue paure erano aumentate. Aveva provato a immaginare che fossero prive di fondamento, senza riuscirci. Si era detto: è solo il vento nel camino, forse è un topo che ha attraversato la stanza, oppure è stato un grillo che ha smesso subito. Sì, con queste congetture aveva cercato inutilmente di rassicurarsi. Tutto era inutile perché la morte, avvicinandosi, gli era passata davanti, avviluppandolo nella sua ombra nera. E la luttuosa influenza di quest'ombra invisibile gli faceva sentire, anche se non vedeva né udiva nulla, gli faceva sentire la presenza della mia testa nella stanza. Dopo aver atteso a lungo, pazientemente, senza udire che si rimetteva sdraiato, decisi di aprire nella lanterna un piccolo, piccolissimo spiraglio. L'aprii dunque, quando, quanto furtivamente non lo potete immaginare, finché alla luce un solo debole raggio, sottile come una ragnatela, uscì dalla fessura e andò a colpire l'occhio d'avvoltoio. Era aperto, apertissimo, spalancato addirittura. E appena lo vidi, mi sentii una furia. Lo vedevo perfettamente, era azzurro opaco, ricoperto dall'orribile velo che mi gelava il midollo nelle ossa. Ma non riuscivo a vedere nient'altro dalla sua faccia o del suo corpo, perché come per istinto avevo diretto il raggio precisamente in quel punto maledetto. In quel momento, non vi ho già detto che quel che scambiate per pazzia non è altro che un'eccessiva sensibilità? In quel momento, dico, giunse alle mie orecchie un rumore sordo, debole, rapido, come di un orologio avvolto nell'ovatta. Anche quel rumore lo conoscevo bene. Era il battito del cuore del vecchio e accrebbe la mia furia. Proprio come il rullo dei tamburi eccita il coraggio dei soldati. Ma anche allora mi trattenni e rimasi calmo, respiravo appena. Tenevo la lampada immobile, cercando di dirigere il raggio di luce proprio sull'occhio. Intanto l'infernale ticchettio del cuore aumentava, si faceva sempre più rapido, a ogni istante sempre più rumoroso. Il terrore del vecchio doveva essere estremo. Diveniva più forte, vi dico, di minuto in minuto. Mi seguite? Vi ho detto che sono nervoso, lo sono. E ora quello strano rumore, proprio nel bel mezzo della notte, nel terribile silenzio di quella vecchia casa, quel rumore così strano, scatenò in me un terrore insopportabile. Per qualche minuto ancora riuscii a controllarmi e rimasi immobile. Ma il battito si faceva sempre più forte. Pensai che il cuore sarebbe scoppiato in quel momento, una nuova ansia si impadronì di me. Qualche vicino avrebbe potuto udire il rumore. L'ora del vecchio era giunta. Come un urlo, spalancai la lanterna e balzai nella stanza. Il vecchio gridò, una volta soltanto. In un attimo lo scaraventai sul pavimento e gli buttai sopra il pesante letto. Sorrisi di gioia. Fin lì era fatta. Per molti minuti il cuore continuò a battere con un rumore soffocato, ma non ero preoccupato per questo, al di là del muro nessuno l'avrebbe udito. Poi cessò, il vecchio era morto. Spostai il letto ed esaminai il corpo, era morto, morto stecchito. Posai la mano sul suo cuore e la tenne lì per qualche minuto, nessun battito, era morto. E il suo occhio non mi avrebbe più tormentato. Se ancora pensate che sono pazzo, non lo penserete più quando vi avrò descritto le sagge precauzioni che presi per l'occultamento del cadavere. La notte avanzava e io lavoravo alacremente, in silenzio. Prima di tutto feci a pezzi il cadavere, tagliando via la testa, le braccia e le gambe. Poi spostai tre assi dal pavimento della camera e deposi il tutto fra le travi. Infine, rimisi a posto le tavole così abilmente, così accuratamente, che nessun occhio umano, nemmeno il suo, avrebbe potuto accorgersi c'era qualcosa di strano. Non c'era niente da pulire, non una macchia, né una chiazza di sangue. Ero stato abilissimo. Tutto era finito in una vasca. Quando giunsi alla fine di questi lavori, erano le 4 ed era ancora buio come a mezzanotte. Quando il campanile suonò le ore, udì bussare alla porta dell'edificio. Scesi ad aprire, perfettamente tranquillo. Che cosa avevo da temere ormai? Entrarono 3 uomini, che molto cortesemente si qualificarono come agenti di polizia. Nella notte un vicino aveva sentito un grido, si sospettava qualcosa di losco. La polizia ne era stata informata e loro, gli agenti, avevano l'incarico di perquisire l'edificio. Sorrisi. Cosa dovevo temere? Diedi loro il benvenuto. Ero stato io, dissi, a gridare nel sonno. Il vecchio, aggiunsi, era via, in campagna. Accompagnai i miei ospiti per tutta la casa, li invitai a cercare bene, li guidai infine nella sua stanza. Mostrai loro i suoi tesori, intatti e in perfetto ordine. Nell'entusiasmo della mia sicurezza andai a prendere delle sedie e proposi che lì si riposassero delle loro fatiche, mentre io, nella sfrenata audacia del mio completo trionfo, sistemai la mia sedia proprio nel luogo sotto il quale riposava il corpo della vittima. Gli agenti erano soddisfatti, il mio comportamento li aveva convinti, ero perfettamente a mio agio. Se ne stavano seduti a parlare delle cose di tutti i giorni e allegramente lo facevo anch'io, ma dopo un po' mi sentii impallidire e desiderai che se ne andassero. Mi faceva male la testa e mi sembrava di udire un tintinnio nelle orecchie. Ma loro restavano seduti a chiacchierare. Il tintinnio divenne più chiaro, più insistente e distinto. Parlavo a ruota libera per liberarmi di quella sensazione che però persisteva ed acquistava un carattere sempre più preciso, finché, alla fine, scoprii che il rumore non era nelle mie orecchie. Senza dubbio in quel momento divenni molto pallido, ma parlai ancora più a raffica, alzando la voce. Il rumore però aumentava. Cosa potevo fare? Era un rumore sommesso, cupo e tuttavia rapido, come di un orologio avvolto nell'ovatta. Ansimavo, ma gli agenti non udivano nulla. Parlavo più in fretta, con maggior foga, ma il rumore aumentava senza tregua. Mi alzai in piedi e parlai animamente di sciocchezze, gridando e gesticolando con violenza, ma il rumore cresceva senza tregua. Perché non se ne andavano? Camminai avanti e indietro, percorrendo la stanza a grandi passi, come se le loro osservazioni mi avessero fatto infuriare, ma il rumore continuamente aumentava. Mio Dio, che cosa potevo fare? Avevo la bava alla bocca, deliravo, imprecavo, presi la sedia su cui ero seduta e la trascinai sulle tavole, ma il rumore sovrastava ogni cosa e continuava ad aumentare. Diventava più forte, più forte, più forte. E gli agenti continuavano a chiacchierare piacevolmente, a sorridere. Era impossibile che non lo sentissero. Dio onnipotente, certo che no. Lo sentivano, sospettavano, sapevano. Si stavano prendendo gioco del mio terrore. Questo pensai e lo penso ancora adesso. Ma tutto era meglio di quella tortura. Tutto era più tollerabile di quella beffa. Non potevo sopportare più a lungo i loro sorrisi ipocriti. Sentii che dovevo gridare o sarei morto. E ora. Ancora, ascoltate, più forte, più forte, più forte, sempre più forte. Maledetti, gridai. Smettetela di fingere. Confesso il mio delitto. Togliete quelle assi. È qui, qui, il battito di quell'orribile cuore.